Olimpia. Miti e verità dello sport. Di Dario Ricci. Il numero più alto di podi in Coppa del Mondo, 43. Il record precedente erano i 38 del 96-97. E il numero più alto di podi in discesa libera, 12 contro gli 11 fatti registrare soltanto in due occasioni precedenti. E poi il più alto di podi nel femminile, 25, al massimo si è raggiunti a 20. E nel gigante femminile, 11 contro i 10 del 2007-2008. E il maggior numero di piazzamenti nei primi 10, sempre tra le donne, 76 contro i 71 dell'annata scorsa. Aggiungete poi le buone notizie provenienti dal fondo, dove Federico Pellegrino, che abbiamo già raccontato qui a Olimpia, non si è limitato a fare la storia nel mondiale, ma è anche divenuto l'italiano più vincente di sempre in soli 2 anni, 1 mese e 9 giorni. E poi le buone notizie dello snowboard. Insomma, basterebbero le cifre a consacrare quella appena conclusa come la stagione più vincente dello sci azzurro, come ha ribadito anche il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, nella recente celebrazione svoltasi a Milano. Definiamo solo che è una stagione positiva per la federazione e per i risultati degli atleti, quindi direi che si può solo dire una buona stagione, una stagione importante, e sicuramente non è tutto perfetto, è anche qualche momento difficile, qualche momento con qualche ombra, quindi però direi che in generale ci si può ritenere soddisfatti. Ma più dei numeri, pur esaltanti, possono le emozioni. Sentite un po'. Here we go, Peter Fell looking for the downhill title, looking to successfully defend the title that he won last season. But he hasn't won a World Cup all tour long. Don't get me wrong, a model of consistency on the podium. Peter Fell into second position. Questa la grande impresa di Peter Fell ad Asper, indietro di 33 punti rispetto a Kjetil Jansrud. Il 34enne di Castelrotto ha messo a segno il ribaltone nell'ultima discesa libera della stagione, piazzandosi secondo alle spalle dell'altro azzurro Dominic Paris, mentre il norvegese non è andato oltre l'11° posto. Un bis memorabile per Fell, che così è diventato il primo nella storia del nostro sci a conquistare per 2 anni di fila la Coppa di specialità in discesa libera. Sì, la prima era storica e veramente mi ha soddisfatto tanto, mi ha fatto arrivare, cioè, mi ha realizzato un sogno, e poi quest'anno è arrivata la seconda, la conferma, veramente molto bello, perché era difficile, non ci è mai riuscito prima un italiano, soprattutto in discesa, e no, sono veramente contento e soddisfatto del lavoro di squadra, e ha funzionato bene, sono molto contento. Bravo Fell a mettere sotto pressione Jansrud fin dalle prove. Non era facile, bisognava affrontarlo nel modo aggressivo, infatti nelle prove a Espen ho provato a spingere un po' per metterlo un po' sotto pressione, si vede che ho preso la via giusta e alla fine è arrivata la Coppa, stupendo. Successo che aumenta ancora di più la consapevolezza del nostro asso di poter recitare ancora a lungo un ruolo da protagonista. Beh, sicuramente tanta consapevolezza, e quella è anche molto importante, però è una gara unica, e come anche quest'anno ai mondiali ero preparato perfetto, era tutto perfetto, ero pronto per fare la medaglia, però alla fine se non hai la fortuna di partire col pettorale giusto non hai chance, come era anche quest'anno. Quello è veramente un peccato, però bisogna avere la fortuna nel giorno giusto. Invece quando vinci la Coppa sei stato il più bravo, e quello, per quello penso che vale anche 5 volte di più che una medaglia ai mondiali. Vittoria di Coppa che è arrivata pur mancando il successo individuale in discesa. Beh, poco male viene da dire, sarà l'obiettivo del prossimo anno. Se vuoi vincere la Coppa non è che puoi sempre solo contare di arrivare in fondo, devi sempre puntare alla vittoria, però quest'anno sono stato un po' sfortunato su quello, tante volte veramente a pochi centesimi di secondo, 4 volte, e ho fatto la vittoria in Super G, che è già quello. Su quello sono molto contento, perché comunque anche lì ho fatto un passo in avanti molto buono, molto positivo, e prossimo anno cerco di magari fare più vittorie anche nelle discese. Però se alla fine di nuovo vinco la Coppa e sono sempre arrivato secondo in ogni gara, va bene comunque. Il rimpianto invece, dicevamo, il mondiale di St. Moritz, al di sotto delle attese per tutta la spedizione azzurra. Secondo me ha funzionato tutto, noi abbiamo fatto tutto bene, abbiamo fatto il nostro, siamo arrivati preparati, siamo arrivati pronti, siamo arrivati competitivi, abbiamo avuto la sfortuna di beccare i numeri sbagliati e li abbiamo scelti noi, però proprio in quel momento lì quando siamo partiti noi c'era sta macchia di nebbia e e ha rallentato la pista e non avevamo chance. È veramente una sfortuna che capita durante la stagione, e ci è capitato proprio nella gara sbagliata magari, però penso come totale ci siamo preparati veramente bene, eravamo pronti. Analisi condivisa dal presidente Roda, che evidenzia anche le difficoltà tecniche del pendio svizzero, sfruttate anche con qualche malizia dai padroni di casa. Per me è partito molto, diciamo, dall'anno precedente alla finale di Coppa del Mondo, che già non girava, nel senso che degli atleti da subito, Sam Moritz non l'ha mai accettata, anche nel passato, perché io mi ricordo bene anche in passato, non è che l'abbiamo mai accettato di buon gusto, no? Queste piste un po' particolari, un po' atipiche, perché parliamoci chiaro, non c'è vegetazione, non c'è riferimento, molto ondulate. Sicuramente la differenza la fa sciarci su quelle piste. Non a caso gli svizzeri, secondo me in modo antisportivo, io addirittura ho fatto un reclamo in fisse che è stato portato anche a livello internazionale, perché tutti chi fa un mondiale deve avere la possibilità almeno 2 giorni di sciarci su una pista. Non è possibile che una federazione blindi una stazione e dica no, nessuno ci scia sopra, e quindi automaticamente tutti devono partire già con un handicap rispetto a quelli che sono locali. In effetti, se andiamo a vedere nel complesso, questo è stato molto positivo per loro, perché se pensiamo a quello che sono stati i risultati prima dei mondiali e dopo i mondiali, onestamente vuol dire che se le sono giocate bene le loro carte, quindi bravi loro, però questo non toglie che la cosa non è stata molto sportiva. Ma Sam Moritz è ormai il passato, il futuro altrettanto vicino sono i giochi di Pyeongchang 2018. Peter Phil è pronto, ma il sogno andrà costruito con lavoro e pazienza giorno dopo giorno. Ah, non ci penso ancora, perché deve passare ancora tanto tempo, deve girare tutto bene, so che sto bene. I materiali funzionano, sono molto motivato per la prossima stagione, e poi sicuramente spero che possiamo rivederci per un motivo simile come quest'anno. Tra pochissimo torneremo a parlare di sci alpino, ma intanto applausi merita anche il nostro snowboard, con Michela Moglioli che a 22 anni ha sfiorato la Coppa del Mondo e conquistata la sua seconda medaglia iridata, il bronzo nello snowboard cross. Anche quest'anno ho ottenuto i miei risultati, io sono già molto contenta di come è andata quest'anno ottenendo questo bronzo, che è il secondo che vinco. È un'emozione un po' diversa rispetto al primo, perché io puntavo un po' più in alto, però comunque va bene così, sono contenta. Michela diventa così di fatto l'ambasciatrice di una disciplina che sta conquistando sempre più fan, soprattutto tra i giovanissimi. I giovani si stanno appassionando tanto, spero sempre di più, perché comunque le persone che lo conoscono per la prima volta si innamorano di questo sport, perché è molto particolare, soprattutto la mia disciplina. Ecco, io spero che riceveremo sempre più attenzioni, non è facile perché a volte siamo nelle ombre di tanti grandi altri sport, però piano piano ci stiamo facendo spazio. Allora, prendiamo un attimo di fiato, una breve pausa, poi ancora insieme qui ad Olimpia. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta Olimpia, miti e verità dello sport. La velocità non è elevatissima, non è male però, quasi 88 km orari, però aveva perso 4 decimi abbondanti. Bastano anche 10 centesimi, anche uno basta per andare al comando, e poi dopo se la devono vedere le altre. Bravissima, bravissima, deve spingere però, deve collegare ed essere un pochino più dolce ancora. Vediamo un pochino se è anche veloce, è anche veloce! Qualcosa come 4 decimi! Dai! 48 centesimi di vantaggio su il... Dai, prendiamo a casa anche questa! Contro! L'1.28! Ottimo! Sì! Il cronometro 1.20.35! Grande! Una giornata fantastica di Sofia Goggia! Il podio che parla per 2/3 italiano! Goggia, Stukets, Brignone! Straordinaria Sofia Goggia, la 26enne finanziera bergamasca che è stata la punta di una nazionale femminile di sci alpino da favola, insieme a Brignone, Bassino, Mölg e tutte le altre. per la Goggia, quest'anno 13 podi in Coppa del Mondo, il bronzo nel gigante ai mondiali di St. Moritz e due vittorie davvero pesanti nella Libera e nel Super G a Gyeongseon, in Corea del Sud, su quella stessa pista che fra meno di un anno ospiterà i giochi olimpici di Pyeongchang 2018. Glielo abbiamo fatto scherzosamente notare, incontrandola in questi giorni a Milano, e lei ci ha appunto sorriso sopra. Chiaramente la prima cosa a cui ho pensato, ho detto: ecco, adesso per un anno sono a posto con questa domanda. Hai vinto in Corea sulla pista olimpica, però sappiamo benissimo tutti che le cose possono cambiare anche radicalmente da un giorno all'altro. E quindi io ho vinto in Corea perché in quel momento ero pronta per farlo. E dopo magari anche un'esperienza molto combattuta al mondiale, e però prendo quella gara come singola gara. Ho conosciuto sì la pista, però l'anno prossimo non so in che condizione arriverò, mi auguro in perfetta forma, e quindi vedremo. Ma c'è stato un momento dell'annata in cui Sofia ha capito che quest'anno sarebbe stato proprio straordinario? Sentite un po'. Sì, alle finali della scorsa stagione a St. Moritz ho guardato il mio percorso. L'anno scorso chiaramente era una stagione di transizione, venivo ancora da anni di infortuni e da tantissima discontinuità nel mio sport, nello sci. E, però mi sono detta, io voglio lavorare con la consapevolezza di poter valere quelle posizioni, perché io so di poterle valere, anche se in realtà non mi ero mai riuscita ad esprimere. Ho lavorato diversamente a livello fisico e veramente con un'altra consapevolezza mentale per tutta l'estate. Sono arrivata alle prime gare, ho fatto quinta Solden e poi ho iniziato a far tutti i podi, e alla fine penso di aver raggiunto un livello di sci e un livello di sicurezza mia molto invidiabili. In un momento in cui l'aspetto mentale della preparazione viene molto enfatizzato in tutti gli sport, Sofia punta piuttosto ad arrivare carica e pronta al cancelletto di partenza. Sì, io lavoro con Giuseppe Vercelli, che è lo psicologo anche della Juventus, che lavora con il metodo Sfera. Ma io, a dir la verità, ogni tanto riusciamo a far qualche seduta, anche se in realtà lui è di Torino, io sono di Bergamo, e nonostante l'estate sia sempre a Bergamo, ho sempre mille impegni, ma proprio anche a livello dell'essenza del mio sport, ovvero la preparazione atletica, che per me è imprescindibile. Quindi prima ho le priorità su determinati aspetti, senza chiaramente tralasciare il lato mentale, però io ho solo bisogno di una cosa: arrivare al cancelletto serena, tranquilla e consapevole di ciò che ho fatto e di quello che voglio. Poi chiaramente gli errori in gara ci stanno, però devi avere la prontezza mentale e la prontezza fisica per reagire. Però veramente io punto di più alla condizione con cui arrivare al cancelletto piuttosto che a preparare una gara mentalmente con metodi magari un po' più elaborati. A quel punto poi il resto lo fanno grinta, cuore, muscoli e tecnica. Vada come vada, l'importante è dare tutto. In realtà io non penso alla vittoria, penso solo a stare in me stessa e a puntare alla miglior performance sciistica, che poi può equivalere come una vittoria mia a livello personale, e magari poi un secondo posto perché la vona una supremazia o chicche. Qualcun'altra, quindi io veramente punto ad avere la mia vittoria personale come presentazione di me stessa al cancelletto, e concentrazione e performance sciistica, e poi il risultato dipende sì da me ma anche dalle altre. Federica Brignone, Marta Bassino, per Sofia in molte specialità non mancano le rivali proprio nel team azzurro. Personalità spiccate e convivenza che è stimolo alla competizione in squadra. Al cancelletto sei da sola, e al cancelletto non esiste nessuno, esisto solo io, che sono connessa con gli scarponi chiusi, i bastoni in mano e gli sci agganciati. E esisto solo io al cancelletto. Poi chiaramente si possono passare dei bei momenti di armonia anche nel gruppo. Abbiamo tutte un obiettivo in comune, che però non è un obiettivo comune, quindi lavoriamo insieme ma non per realizzarlo insieme. Quindi sembra strano, poi parliamo sempre di squadra. Alla fine, se ci pensi, la squadra è magari una squadra di calcio che ha un obiettivo comune, cioè tutti le 11 persone, gli 11 giocatori vanno in campo per vincere insieme. Noi invece siamo più un gruppo, tra virgolette, quindi lavoriamo insieme, ma è l'individuo singolo che può vincere. Per ora però meglio pensare a ricaricare le pile e alle vacanze. Poi testa e cuore punteranno dritte alla Corea del Sud. Cavolo, mi sono fatta il regalo più bello andando così forte, lavorando così e raggiungere questo. Quindi è questo il regalo più bello che mi sono già fatta. E chiaramente dovrò staccare un attimo e farò un solito viaggio di 15 giorni, 10 giorni. Non so ancora dove, non so ancora quando. Stagione d'oro, dicevamo, quella dei nostri sport invernali, che fa impallidire il ricordo, pure recente, di annate avare di risultati e segnate soprattutto dalle difficoltà economiche della Fisi, che viaggia ora invece con passo molto più sicuro verso Pyeongchang 2018, come sottolinea ancora il presidente federale Flavio Roda. Beh, abbiamo avuto, dobbiamo dirlo chiaramente, anni difficilissimi e qui bisogna fare un plauso ai tecnici, agli atleti, perché hanno lavorato anche in condizioni veramente minime, no? Perché abbiamo dovuto ottimizzare tutto, andare nelle caserme per gli allenamenti, andare in certe stazioni perché era solo possibile, non c'erano, diciamo, le risorse veramente per fare, non riuscire a fare doppie trasferte, quindi abbiamo veramente cercato, ma era un momento particolare che dovevamo fare in quel modo, perché la federazione in quel momento non aveva le risorse, quindi non avendo le risorse cosa succedeva? Che avessimo continuato su quel passo, automaticamente la federazione chiudeva prima o poi, no? Non aveva veramente, andava a una chiusura completa di attività. E invece, ottimizzando, abbiamo parlato chiaramente con i tecnici, con tutti quanti, tutti si sono impegnati e adesso possiamo dire che sono momenti importanti, perché a livello finanziario abbiamo risolto i problemi, quindi siamo in una condizione ottimale. E poi veramente, forse questo è, non senza forse, proprio il merito degli atleti, anche in particolar modo che è cresciuto la PIL verso la federazione, quindi le sponsorizzazioni sono aumentate, quindi c'è maggiore introito e quindi possiamo essere sereni che non solo per l'anno olimpico ma anche per i futuri anni sicuramente la federazione può avere veramente momenti più rosei, diciamo, da un punto di vista economico. Per paradosso, aver vinto tanto nell'anno preolimpico mette ora un bel po' di pressione sulla squadra azzurra in vista dei giochi, ma Roda è fiducioso che dalle nevi coreane fra un anno possano arrivare altre soddisfazioni. Ma questo è il nostro mondo, il mondo dello sport. Io penso che la cosa importante, sia in negativo che in positivo, è sempre avere un attimo... pensare un attimo quello che è successo, quello che sta succedendo, non avere troppa fretta a giudicare né in positivo né in negativo, perché la cosa peggiore negli sport, in particolare in uno sport come il nostro, che è uno sport che c'è l'ambiente, che l'ambiente influisce tantissimo, perché basta una nuvoletta, cambia tutto quanto, quindi bisogna avere quella consapevolezza veramente di valutare veramente con molta tranquillità quello che è successo, quello che potrebbe succedere. No, bisogna essere però concentrati. Anche gli atleti adesso sì, hanno terminato questa, però devono già avere mentalmente, devono essere portati verso quello che è un appuntamento olimpico, anche perché l'Olimpia, sappiamo benissimo, per un atleta è veramente, gli cambia la vita, quindi il campione olimpico è un campione olimpico e quindi secondo me, però io ho notato una cosa, che ormai abbiamo degli atleti un po' in tutte le discipline, quelli di alto livello, che sono consapevoli anche delle loro capacità e delle loro possibilità, e questo, diciamo, è la cosa vincente, perché se loro sono consapevoli, se loro hanno l'idea di poter fare, secondo me quello aiuta tanto. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.